X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Cristina Tardito, torinese, una figlia creatrice del marchio Cristina T, da 2 anni è l'amministratore unico della Tamigi, azienda tessile fondata nel 64 dal padre Franco. Una scelta che ha definito la sfida più importante della mia vita. Studia architettura senza convinzione, poi con l'aiuto del padre parte dai costumi da bagno e oggi firma una linea di moda che piace anche a Naomi Campbell. A 17 anni, per non richiedere soldi a casa, lavora come centralinista alla Rai. Di sé dice: sono uno spirito libero e un po' hippie. Ama viaggiare, la libertà è sua figlia Lola, ma detesta l'aggettivo romantico, sia per sé che per i suoi vestiti. Allora Cristina, perché romantico no? Perché è una parola un po' molle, una parola che non mi piace, una parola che dà un senso di debolezza. Quindi non ha mai amato in un modo romantico? Ma forse no, forse sì, non lo so, non ho ancora capito se veramente ho amato e come ho amato. Ah, se ho amato, addirittura siamo ancora lì? Ma sì, perché è una cosa strana l'amore, una cosa molto stranissima. Molto strano, non ci si capisce niente sostanzialmente. Almeno io pochissimo. E quindi gli uomini è meglio se freddi, cinici, spietati, insomma, che così sono forti. No, allora, gli uomini meglio se forti, poi che siano quello che devono essere, però forti, forti. Dunque, i giornalisti della moda però spesso hanno definito invece le sue collezioni romantiche, quindi non capiscono nulla praticamente. Ma no, è che non esiste un'altra parola. Ah. Il problema è tutto lì, bisognerebbe inventare una parola diversa, a me potrebbe andare bene comunque. Romantico è giusto per definire Cristina T. Ma che parola userebbe lei per invece di romantico? Ma femminile. Femminile. Anarchica invece le piace, Ma anarchica mi dà un senso di libertà, adoro la libertà. Quindi potrebbe andare? Sì. Lei ha cominciato a lavorare in azienda con suo padre, insomma praticamente diciamo una figlia di papà. Esatto, esattamente una figlia di papà. Era più felice lei o suo padre di quella scelta, Cristina? Ma inizialmente lui e probabilmente alla fine più io. Cioè ha assistito lui? Ma lui ha voluto, mi ha tirata dentro per i capelli, quindi. E poi forse fiero da una parte e pentito dall'altra. Pentito perché? Aveva paura? Pentito perché Cristina T è diventato il marchio più forte di lui, in qualche modo sì. Quindi eravate in concorrenza sostanzialmente. Ma una stranissima concorrenza, devo dire, una concorrenza che mi ha... Sì, bella, difficile, probabilmente io sono quella che sono grazie a quella concorrenza. A quella concorrenza. Intanto ha lasciato architettura a Firenze e le è dispiaciuto oppure no? Ma di nuovo, lì sul momento assolutamente no. Oggi forse sì, perché studiare come è la base, e io lo dico sempre a mia figlia, cioè è costruire le fondamenta del... Quindi le manca aver studiato, Cristina? Sì, ma ni, perché in qualche modo poi me lo sono andato a cercare. Quindi, con lavorando. Delle passioni, con... È appena entrata in azienda, che cosa ha fatto? Niente, perché mio padre mi ha messo in un ufficio accanto al suo. Chiusa con un chiave. Vetro, con un, no, con il vetro per potermi controllare. Vedere, e mi ha detto esattamente quello che dovevo fare. E poi l'ha vista, l'ha guardata, ha visto che c'aveva i jeans strappati, le canottiere troppo strette, ha detto: cara mia, qua non funziona. Esatto. Così. Regola numero uno: ci si veste diversamente. Ammazza, ed è stato difficile accettarlo? Ma no, io... Cioè si cambiava appena usciva? Sì, assolutamente. Ma in qualche modo io amo i limiti, non le regole, ma i limiti. E quindi l'azienda era sua, l'ha fondata lui, l'ha voluta lui, è un grandissimo successo. E quindi trovavo in qualche modo corretto che fosse lui a dirmi come... E quali altri essere. Limiti gli ha imposto, Cristina? Ma allora adesso, a parte le battute, lui mi ha dato una grandissima libertà, perché ha deciso di prendere una ragazzina e di farle fare un brand con il suo, col suo nome Cristina T, esatto, facendole fare un po' quello che voleva. E quindi, come dire, massima libertà. Probabilmente ci aveva visto lungo, perché probabilmente aveva intuito in lei delle capacità che lei non sapeva neanche di avere. Probabilmente una sensibilità particolare. Senta, lei ha detto che diventare amministratore unico dell'azienda di suo padre è stata la sfida più importante della sua vita, e capisco bene perché Poi lì bisogna fare i conti anche. No, ma non lo è solo ancora. Era creativi. Sì, lo è ancora. Cioè, io ho appena messo il piedino in questo nuovo ruolo. Ed è comunque un grandissimo salto da una ragazza che aveva voglia di fare poco o nulla, che studiava architettura, presa dal padre, buttata in azienda, diventa una creativa per caso. Io oltretutto non so neanche disegnare. Però vuol dire un talento naturale. Ma no, io parlo sempre di sensibilità e una visione. Da lì faccio un marchio, faccio consulenze per diversi marchi anche francesi e poi a un certo punto scopre che Cristina T dice facciamolo. No, sì, ma mi sveglio e divento l'amministratore unico di un'azienda. Sono tanti, dei gran bei passaggi. Ah, non c'è vita. Dubbio, ma c'è stato il rapporto è stato difficile con suo padre o no? Beh, direi proprio di sì, ma quella difficoltà la rivorrei tutti i giorni della mia vita. Una difficoltà che stimolava la crescita. Meraviglioso, difficilissimo, ma meraviglioso. E la cosa più difficile nel passare da direttore creativo a amministratore unico, qual è stata la cosa più difficile? Ma posso dire, tutti i giorni sono stati e sono ancora parecchio difficili. Probabilmente la più difficile è stata rifondare l'azienda, che è il grande lavoro che sto facendo in questo momento. Senta Cristina, che cosa le ha insegnato di definitivo suo padre? Il rispetto, il senso etico e morale e il gusto per il bello. Ma adesso che non c'è più, che cosa le manca di più di suo padre? Un po' l'ha detto, lo vorrebbe tutti i giorni per confrontarsi. Ma lo sento ancora talmente vicino a me, come se lo vedessi ancora in azienda, che in qualche modo quasi non mi manca, perché è veramente una presenza, è fisica, stata quasi, una presenza talmente forte che è ancora con me. Senta Cristina, ho letto che lei ha 45, come dipendenti, ha 45 donne e 5 uomini. Perché con le donne si lavora meglio o perché è moda soprattutto per le donne? Ma banalmente perché è sempre stato così. Ah, ma perché sono gli stessi che lavoravano con suo padre? Buona parte sono gli stessi, i nuovi, chiamiamoli nuovi, sono tutti uomini. Ah, tutti quelli uomini. Che sto inserendo cioè, lei io ha sono scelto uomini. Sì, io sì. Lui io ha scelto le donne, lei ha scelto. Esatto. Sarà un caso. Sarà insomma. Un caso. Ah, vabbè, okay. Io amo confrontarmi con gli uomini. Va bene. Quelli là, forti però, esatto, eccetera, certo, eccetera. Certo, naturalmente. Oggi la Tamigi, che cosa produce? Principalmente il marchio Cristina T oppure anche altri marchi? Allora, oggi Tamigi è strutturata per produrre per terzi. Noi produciamo già per una maison francese importantissima e stiamo visionando dei nuovi brand per progettare, industrializzare e produrre per terzi. Ma ci sarà nel futuro più Cristina T oppure più produzione per terzi? Ci saranno entrambe. Voglio che l'azienda si abbia divida le due anime. Sì, le due anime. Ecco, ma lei ha detto sono aperta a tutto tranne che a disegnare collezione per uomini. Assume uomini, vuole gli uomini, poi però li vuole nudi, cioè non li veste. No, io so giudicare se mi piace un uomo vestito in un modo oppure no, ma non ci capisco niente. Nulla. E secondo me bisogna avere comunque del know-how. Quella sensibilità, per... Sì, certo. È comunque un know-how, cioè bisogna intendersene. E siccome ne ho già abbastanza da fare di mio, che direi... Ma quindi è più difficile vestire un uomo che una donna, per lei? Per me sì, assolutamente. Senta, un suo collega che è Giorgio Armani ha detto l'eleganza non è farsi notare, ma è farsi ricordare. È vero? Lo condivide? Beh, assolutamente sì. L'eleganza per me vogliono dire tantissime cose. Probabilmente anche farsi ricordare. L'eleganza è cultura, l'eleganza è intelligenza, l'eleganza è veramente tante canto. Cose. Ma un uomo elegante che cosa deve avere di sicuro? Di sicuro? Un maglione blu come il suo forse. Si chiama captatio. Esatto. È una donna? O manipolazione. È una donna? È una donna, deve essere se stessa. E perché contro le licenze? Ma in realtà non è proprio esatto, cioè io sono contro la licenza giusto per guadagnare denaro, punto e basta. Per me la licenza deve avere un senso, deve avere un'altra azienda con similitudini. Con la quale c'è con la quale costruire vero. Un business vero, non fare denaro punto e basta. Senta, ma gli occhiali che ha messo in commercio da poco però sono fatti da un'azienda torinese che non è sua, quindi è una licenza. È una sorta di licenza con qualcuno che ha i miei stessi valori, produzione, producono in Italia, cioè viaggiamo, siete d'accordo? Assolutamente sì, allora lì secondo me le licenze vale la pena farle. Lei ha detto che con la crisi le clienti sono diventate più esigenti. Ecco, più esigenti, immagino certamente sul piano del prezzo, ma non credo solo. Anche su cosa? No, fanno attenzione a non riempire gli armadi con qualcosa che hanno già o con qualcosa che non indosseranno mai. Quindi c'è un'attenzione maggiore all'acquisto. Sì, più responsabile, lo più trovo responsabile, anche più meglio, intelligente. Per fortuna. Lei l'ha sentita la crisi o no? Beh, certo. Molto? Certo. Sì. Però devo dire che in questi ultimi anni in cui sono appunto diventata amministratore, sì, sono talmente coinvolta in questo grande cambio aziendale che sono entrata in un vortice, per cui crisi, non crisi, problemi, più o meno la stessa cambiamenti, cosa. Però oramai sono dentro e ballo. Comunque l'Italia è fondata sulle piccole e medie imprese. Ne conosce molte che hanno chiuso? Ahimè, sì. Sì. Oggi lei, il suo marchio fattura 7 milioni di euro in un mondo dove ci sono marchi come Armani, Ferragamo, Prada che fatturano miliardi. Davide Golia, cioè ci vuole bisogno di identificare proprio la nicchia? È quello il segreto per sopravvivere? Allora, io ho deciso di andare avanti perché voglio che questo brand cresca, quindi sì, questo fatturato veramente minimo deve obbligatoriamente crescere. Io credo però che l'eccellenza e la nicchia abbia un senso in questo paese, certo, che rappresenti l'eccellenza in tutti i settori. Certo. E quindi Cristina T ha senso di esistere anche con un piccolo fatturato che sì, deve cresce, automaticamente, certo, cresce. Lei ha detto la moda è sempre stato un punto di eccellenza nel nostro paese, non dobbiamo perderlo, è ovvio, non dobbiamo farci sbeffeggiare dalla Francia, però in realtà ci compra a man bassa la Francia. Assolutamente sì. È così. C'è da chiedersi perché. E perché secondo lei ce l'ha una risposta? Perché probabilmente il nostro sistema moda non riesce a far sistema. Troppe invidie fra di voi. Anche. Ma lei lo venderebbe un suo marchio a un gruppo francese? Ha avuto proposte? Ma oggi no, perché mi sono messa in questa impresa. Magari domani sì, perché no? Cioè io non da anarchica non sono, non ho la regola fissa, non quindi c'è la regola. Tutto può essere. Senta, negozi, lei ha negozi a Torino, a Milano, a Porto Cervo, a Forte dei Marmi, adesso è aperto una a Roma. Sono tutti negozi monomarca, no? Sì, è un monomarca speciale. Cioè? Perché allora io non immagino mai una donna vestita con un total look di un unico brand. E quindi faccio una sorta di scelta di altri brand italiani, che funzionino con insieme, Cristina. Ecco, quindi come se un suggerimento di che cosa è carino messo assieme a Cristina. E questo cambia in ogni città o no? Sì, cambia in ogni città ed è una ricerca che faccio un po' in giro per il mondo. Certo, ma è vero che quando è aperto a Porto Cervo nell'86 mi sembra, è venuta a Naomi Campbell, lei ha fatto finta di essere commessa del negozio? Perché... No, io quando mio padre mi prese questo negozio a Porto Cervo decisi di fare la commessa un po' in incognito perché volevo capire che cosa è. Poi nella fattispecie è venuto Ralph Lauren che mi ha lasciato un biglietto di auguri, cioè sono successe tante cose super carine. Belle, sì. E io adesso non ricordo se con Naomi facevo commessa o no, ma di fatto con Naomi poi siamo diventate amiche, ci siamo riviste poi negli anni. Ecco, il marchio Cristina T va dai costumi da bagno, ai pantaloni, alle camicie, tutto rigorosamente made in Italy. Anzi, se ho capito bene, made in Piemonte, questo che la salva dai big, Cioè, è una che moda mi a chilometro speciale, zero praticamente. Sì, sicuramente è qualcosa che mi rende speciale. Certo. Perché la cliente che si dica ha voglia di bei prodotti, cioè gli italiani ma gli stranieri tutti hanno voglia del made in Italy, quello vero, bello. Ecco, ma quello chilometro zero, cioè piemontese, Torino, che cos'ha di speciale? Noi controlliamo i laboratori che lavorano per noi, prestiamo le macchine, insegniamo a lavorare, quindi è un know-how che viene trasmesso a dei laboratori, lo si può fare nella vicinanza, non posso certo andare non so, a 800 km a prestare per controllare. E quindi in qualche modo si riesce ad avere un prodotto particolare. Ecco Cristina, speciale. Ma come nasce una collezione di Cristina? Beh, nasce da una visione, sembra un parolone, ma in realtà chi io, disegna? Io. Ah. Ha detto che non sapeva disegnare. No, disegno malissimo, però... disegno malissimo, però sono io che faccio E quindi i vestiti sono tutti un po' storti, diciamo. Sì, no, sono dei disegni orrendi che mi vergogno a far vedere. Ho avuto degli staff di stile, ho lavorato con il mio ufficio stile, poi di nuovo in questi ultimi anni ho deciso che... Sì, lei ho voluto fare un po' un passo indietro e mettere le mani in pasta. È importantissimo avere le mani in pasta, anche quando si comanda, soprattutto quando si comanda. Brava. Oggi il paese in cui esporta di più è il Giappone. Ecco, donne giapponesi, donne torinesi. È uno strano melange. Cosa hanno in comune? Beh, sono donne raffinate, sono donne molto introverse, e sono donne che vanno alla ricerca del dettaglio, del particolare. Ma c'è un'eleganza piemontese, anzi torinese? Forse quella del pezzo in meno rispetto al pezzo in più, quindi un po' il mostrare meno, una capacità, ma con una di togliere invece che mettere. Sì, però con personalità, certo, che fa la differenza. È naturale. Ecco, le cronache della moda parlano di un duello Torino-Milano da questo punto di vista. È una sfida vera oppure è inventata? Ma io posso dire che non ho mai sentito Torino-Milano, cioè Milano, Parigi, New York, ma Torino mi piacerebbe. Mi piacerebbe entrare nella competizione. Esatto, anche perché a Torino che fanno moda credo che siamo due aziende, quindi sarebbe una battaglia abbastanza facile. Ecco, da Torino è partita, ha viaggiato, ma Torino però è tornata. Perché è tornata? Ma perché è una città speciale, una città magica, una città dove... si può, cioè, per me è un po' un punto di ritorno e di partenza. È una città che mi consente di fare delle cose incredibili, come fare sci d'acqua al Lago d'Orta, 100 metri dal mio ufficio. Ah, sì. Piuttosto che andare a vedere delle mostre meravigliose. È una città che le piace. Senta, ma i viaggi sono un'ispirazione per i suoi vestiti o no? Per la mia vita. Per la vita, sicuro. Sono un'ispirazione per la vita. E quindi anche. Sì, e quindi in qualche modo Cristina Tardito sono la stessa identica cosa. Ecco, ma ci sono posti che ama di più? Cioè, c'è qualche luogo del cuore, della fantasia, dell'anima? Beh, cambiano sempre. Ultimamente io sono pazza di Città del Messico. Città del Messico, ammazza, con tutta quella smog, sì. Beh, con tutta quell'arte, quel design. Senta, le piace la nuova sindaca di Torino, Chiara Prendino? Sì. Vorrebbe vestirla? Ma non so, sì, un po' darsi. Vestita chiunque, bene o male? Io vorrei vestire chiunque abbia voglia di essere vestita. È vestita da me. Bene o male? Aiuto, che domanda. È vestita classica, molto, molto classica. Mi piacerebbe vederla con qualche cosa di un po' più speciale. Cioè, è un pochino un'impiegata della Fiat? No. Com'è? No, è un po', un po' troppo, forse understatement. Ok. Ma sta facendo bene o male, secondo lei? Sta facendo. Ho letto che oltre al Giappone cercherà di conquistare anche l'America. Ma quale America? Quella di Trump? Sì, per forza. Per forza. E le piace Trump? Non lo so. Posso dire che non lo so. Sono molto curiosa di vedere quel che farà. Da donna, banalmente, le dico di no. Da imprenditore mi incuriosisce. Sono veramente curiosa. Senta, ma lei l'avrebbe vestita Melania Trump se gli avesse chiesto? Certo. E chi ha detto no è ridicolo. Ridicolo. Senta, lei ha detto le tendenze su di me fanno un effetto strano, sono uno stimolo a non seguirle, cioè? Ma sì, perché allora, iniziando da sola a fare Cristina T, io ho il mio mondo, è come se stessi un po' su un altro pianeta. Quindi non capisco per quale motivo mi devo far dire da qualcun altro che cosa devo fare, qualche cosa che vive dentro di me. Certo. Quindi ogni tanto la prendo la tendenza di tutti, ma ogni tanto non la perché prendo è sua. E in qualche modo Cristina T diventa ancora di più Cristina T, perché è uno stile. Cioè, diciamo anche un po' snob, ecco, volendo proprio metterla in un altro modo, se vogliamo. Ma può essere perché vende solo a delle elite del gusto? Perché il suo mercato, comunque, per quanto cresce, è un mercato molto, molto di elite. Ma è di elite perché è un mercato di donne speciali che hanno voglia di qualcosa di speciale. Esatto. Ma non è obbligatoriamente di elite per qualche altro motivo. Sì, cioè... No, ma non ho detto elite finanziarie, di elite come persone. Sì, in qualche persone modo, speciali. Sì. Lo scorso dicembre è morta Franca Sozzani, che era il punto di riferimento della moda italiana. Faccio ascoltare una cosa che ha detto a proposito dello stile. Sì, ho detto che la gente più che comprare i vestiti dovrebbe comprarsi degli specchi, perché in effetti oggi in nome della moda tu ti vesti in qualsiasi modo. Allora, io non è che non capisco, perché faccio questo lavoro, quindi non è che quando mia madre diceva come mai ti vesti così bene e ti pettini così male, cioè per lei c'erano dei canoni fissi, oggi non ci sono, quindi tu sei libero di scegliere, ma scegli quello che ti sta bene. Se sei in una maniera piuttosto che una, ma non solo esteticamente, anche come persona, perché devi diventare il portavoce di un brand che peraltro non ti rappresenta? Non lo capisco. Lo stile è una cosa che ti costruisci in base alla tua personalità, in base alla tua sensibilità, in base anche alla tua estetica, perché non siamo tutti modelle alte 1,80 m perfette, quindi bisognerebbe avere un po' più di coscienza. Quindi sostanzialmente eleganti si nasce. Sì, abbastanza. Sì, sì. È vero che da lei dipendevano, dalla Suzzani dipendevano le sorti degli stilisti, una sua bocciatura o una sua promozione pesava molto? L'ho detto io. E oggi c'è un'altra giornalista da cui dipendono molti destini oppure no? Non lo so, lo lascio dire a lei. Ma ci sarà qualcuna che le piace, no? Che ne so, ma Paola sì. Pollo, che ne so, qualcuno. Beh, Paola l'adoro, sì. Professionalmente io sono molto rispettosa del lavoro delle giornaliste, quindi in qualche modo... Vabbè, ho capito, democristiana. Va bene, molto diplomatica, ok. No, io devo molto ai giornalisti, io devo molto, sono stati quindi, loro comunque. E quindi trattiamoli bene, per favore. No, trattiamoli come trattano loro me. Senta, l'abbiamo detto che c'è poca solidarietà fra di voi, no? È abbastanza un mondo... che da quel punto di vista è difficile. Lei ha qualche amica, collega che frequenta? Ne conosco tanti, ho dei buoni rapporti. Ma non proprio, amici? Proprio amici, no. Forse no. Senta, Federico Marchetti, il patron di Yux, mi ha detto qua che in futuro la moda sarà sempre di più online. Lei è d'accordo? No. No, perché? Ma perché la gente ha bisogno di toccarlo, di toccare, il vestito, bisogno di per gli accessori, probabilmente per le collezioni, secondo me c'è una. Ma lei vende su Yux o no? Sì, vende. Sì, okay. Vende Yux. Quanto vende? Vende una quota significativa o no del suo fatturato? No, una quota significativa. Senta, oggi sembra che ci sia una controtendenza verso i social, Facebook, Twitter, che vengono comunque in qualche modo visti in modo diverso da prima. Non sono più il mito, sono qualcosa da usare, ma insomma. Ma grazie a Dio. Lei li usa molto? No, li no. Uso, ma non molto. Cioè, non, li uso non, come... non è prigioniera? No, è sua figlia Lola? No, non lo è. Quanti anni ha sua figlia Lola? Mia figlia 10. In genere sono prigionieri a 10 anni. No, perché è il lavoro dei genitori quello. E quindi no, spero che non lo diventi. Ma lei cosa vorrebbe essere sicura di averle insegnato? O di insegnarle? Beh, l'indipendenza, di nuovo, i valori che ha insegnato, la libertà. Sì, per me la più grande forma di amore è la libertà. Ecco, ma la libertà va bene, ma libertà con o senza responsabilità? Perché la libertà, per avere libertà bisogna avere anche il senso del limite. Assolutamente. E quindi delle regole. Allora io sono un po' contro le regole, sono sui limiti, tra la regola e il limite qual è la differenza? È una grandissima differenza. La regola la definisce, io posso definire la mia e lei può definire la sua. Il limite invece è fino a quel punto, oltre quel punto non si va più. Ma quel punto va stabilito però, sì, quindi ma non è una anche regola. Di regola. Ma no. Secondo me è un po' più rispettosa della regola, perché la regola non è detto che sia quella giusta per me. Vabbè, la regola per sua figlia. Vabbè, insomma discuteremo dopo su questo. A quattro occhi. Lei ha detto che si è separata dal suo compagno perché non vi amavate più e non volevate dare un cattivo esempio a vostra figlia. Cioè? Cioè, di nuovo, io sono per le cose vere. Una coppia che non si ama più è visibile, soprattutto dentro le quattro mura domestiche. Io e il mio ex compagno abbiamo un rapporto meraviglioso in questo momento e siamo veramente molto molto uniti e mia figlia lo vede, lo percepisce. Quando eravamo in casa e non eravamo così unite, percepiva il dolore che c'era comunque in questa separazione. Per me è giusto che loro vedano la verità. Sì. Certo, ma lei crede nell'amore ancora o no? Perché prima ha detto, boh, l'amore non so tanto cos'è. Io, guardi, posso dire, io sono un entusiasta, sono una positiva, io credo in tutto quello che la vita mi dà e l'amore dovremmo di nuovo continuare a fare un bel discorso. Una discussione lunga. Sì, sono... Ma ha voglia d'amore o no? Sa che non saprei risponderle in questo momento. Va bene, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Vabbè, un'imprenditrice coraggiosa, speriamo che le cose vadano sempre meglio. Sì, dite, molto no? Energetica. Energetica. Sì, sì, Donna in gamba e brava. Brava. Bene, complimenti. E bella. È bella. Non c'eri Pietrangelo, ma avresti gli occhi, sarebbero stati soddisfatti. Vabbè. Senti, allora, che ci fai sentire? Ecco. My friends, they shoulder me in my poor head of woe. They know I'm good, but I wanna be bad. Standing with the lights down low and the lovers who make love, they see me smiling. A chi la dedichiamo? No, non la dedichiamo, nel senso che chi la dedica a se stessa. Cioè, ancora una volta, Diana Cacciatrice, che ieri se n'è andata in perlustrazione giusto per trovare i luoghi degni di... per Madonna Primavera, e ha trovato una strada sorta nell'incanto di Roma, scampata allo sfascio di plastica e spazzatura, e da lì, proprio da un palazzo, sono uscite carrozze con cavalli madidi, tutti di delicata armonia. Insomma, il presagio è augurale e Diana Cacciatrice ha chiamato e ha voluto questo brano per se stessa. Allora Mario, dove ci porti? Ma io guarda, con la tua pentola piena di notizie. Stiamo in Italia perché ci sono un po' di cose su quali fare il punto insieme. E facciamolo. Tra l'altro c'è una canzone che secondo me è adeguata, sono il Clash, Un prigioniero. Prigioniero perché? Perché secondo me è uno dei prigionieri di un certo tipo di racconto, narrazione direbbero quelli che hanno studiato. Oramai narrazione è passato un po' di moda, storytelling lo vedo in caduta libera. Direi proprio di sì. E, insomma, è Padoan, perché insomma, abbiamo lo spread, adesso è aperto 200 mi pare, continua, è come il contachilometri ormai, ogni giorno devi vedere dove va. Ma abbiamo visto 600, capirai. Sì, però insomma non succederà adesso perché la BCE compra, quindi ci sarà un effetto diciamo più diluito delle cose, però è pur sempre quello. Ho appreso che ma ti faccio una domanda tecnica. Se non ci fosse stato il quantitative easing di Draghi, a che punto sarebbe lo spread secondo te? Sarebbe probabilmente vicino ai livelli che abbiamo visto ad agosto, ad agosto 2011, non così alto. Probabilmente la situazione dei conti pubblici un po' meglio, però io ricordo che in quel periodo furono fatte 4 finanziarie di fatto, 2 furono riscritte completamente, 2 presentate, poi a un certo punto manovra intendo. Vabbè, no? Adesso mi è dato una curiosità, dimmi. No, sai, quando compri più di 200 miliardi di titoli di Stato italiani... ti devi fare 2 conti, dici, ma se non li comprava cosa succedeva? Certo. Questo Draghi è stato esemplare. Poi, dopodiché, la politica della BCE è insufficiente, ma per altri motivi. No, volevo solo dire che ho appreso che l'aumento delle accise su tasse, e quindi delle tasse sui carburanti e i tabacchi è una manovra espansiva, quindi io aspetto di vedere una grande espansione dell'economia. Viene venduta come una manovra espansiva. Sì, viene venduta come una manovra espansiva. E anche, è stato detto che la priorità è il debito. Ora, io non voglio infierire sulla priorità del debito, però questo governo, in varie forme, oggi nella forma di Paolo Gentiloni, che è persona per bene, squisita anche. Allora, il debito PIL 2014 rapporto 131,9, 2015 132,3, 2016 132,8, 2017 132,5, 2018 ottimisticamente 131, 2019 qua siamo a Fantasilandia probabilmente 126,6. Cioè 5 punti in un'ora. Allora, è chiaro che se fosse stata la priorità il debito, allora noi avremmo avuto degli effetti, avremmo visto degli effetti subito. In realtà non c'è crescita, non c'è stata una manutenzione seria sulla spesa ed è successo questo. Aggiungo di più, basta vedere la stima dei proventi da privatizzazioni, sempre documento. Un disastro quello, allora, è stato. Nel 2015 era previsto 0,4% del PIL, nel 2016 l'hanno portato a 0,1, nel 2017, cioè adesso, sarebbe previsto 0,5, nel 2018 0,5, nel 2019 0,3. Non vi voglio inondare di numeri, però sono i numeri l'unica cosa che conta in questo contesto. Non c'è dubbio. E i numeri raccontano una verità completamente diversa da quella che si vuole spacciare. Ho letto anche un documento tecnico mandato all'Unione Europea che vuol cambiare la curva di Philips sulla crescita. Insomma, ragazzi, siamo seri. Non c'è tripa per gatti, la nostra crescita è inferiore a quella della media europea e così non siamo, si va avanti. Messi male. Esatto. Salamino. Coalizionisti ed elezionisti. Lunedì ci sarà la direzione nazionale del PD e gli schieramenti sono questi, ma già ieri sera, sul tardi, quando nel corridoio dei passi perduti, quando nel corridoio dei passi perduti di Montecitorio arrivava l'eco fesso, il suono vuoto, il fragore assente dell'aula sorda e grigia, ma arrivava qualcuno. Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene. E l'ultimo, chiuda la porta. Ma magari fosse stata chiusa la porta, Giovanni, magari fosse stata chiusa la porta e basta. Nei suoi commentari, Maria Teresa Meli sul Corriere descrive la notte dei lunghi coltelli. La maggioranza interna, insomma, diventa minoranza, anzi, diventa solitudine esterna. Quale lupo aggredito dalle pecore, Matteo Renzi si ritrova solo. La maggioranza del Partito Democratico diventa solitudine e il rottamatore si ritrova rottamato. Come il padrino insegna, chi porta l'ambasciata e chi ha già deciso la sorte all'ambasciato. E Dario Franceschini e Andrea Orlando, infatti, ieri, al culmine di una Valpurga, hanno comunicato a Matteo Renzi la loro decisione. Non solo si voterà a completamento di legislatura, ma anche quando si arrivasse alle elezioni anticipate, il candidato premier, caro Mario, ti vedo già con la lacrima, no, il candidato premier del Partito Democratico non sarà di certo l'attuale segretario del Nazareno. Ah, meno male. E cambia musica! Urge qui spezzare un'arancia a favore di Renzi. No. Sì. No, sì. È una svolta. Spezziamola. È una svolta. E cambiamo ancora musica! Oh! Ai due che portavano l'ambasciata, cioè a Dario Franceschini e Andrea Orlando, chi si aggiunge? Chi? Si aggiungono Maurizio Martina e Gianni Cuperlo, e quindi Tomo, cacchio, tutti e quattro hanno rappresentato al povero Matteo Renzi ieri un unico obiettivo, quello di fermarlo. Fermarlo, e lui, che pure di suo è un elezionista, ha offerto una mediazione a loro tutti quanti coalizionisti, ma il rottamatore è stato rottamato dai suoi e, udite, udite, gli hanno già fatto un nome da opporgli sia nella segreteria sia a Palazzo Chigi. Chi? Spezziamo ancora una volta l'arancia a favore di Renzi, perché lui, non potendo dettare l'agenda, deve dare i numeri. E questo nome, chi è il nome? Non l'hai ancora capito? No. Il ministro Orlando. No, vabbè. Sì, nei commentari di Maria Teresa Meli oggi è svelato l'arcano. Però lui, per non sbagliare, ha fatto fare un sondaggio. Il sondaggio dice che comunque Orlando prende soltanto il 18%. Matteo Renzi l'82%. A questo punto, Giovanni, tu che conosci la storia e che l'hai fatta, io ti faccio una domanda. La situazione qual è? Che noi sappiamo che Renzi a un certo punto gli ha detto a questi qua: quoque voi, fili mi, che mi combinate? Però ieri sera è stato, secondo te, un anticipo delle Idi di marzo oppure il 25 di un certo mese? Ah, bella domanda. Ma secondo me nessuna delle due. Nessuna delle due. Faranno un accordo. Faranno un accordo. Sì, anche sì. Il Duce lo pensava. Fu il 25 di luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Io faccio il biglietto. Ma il biglietto? Beh, sì. Già pagato? No, pago io. Come per pago dove? Sempre tu. No, per Stati andare. Stati Uniti, dove vuoi andare? Cioè. Che paese libero rimasto. Qua non c'è niente, un disastro, Giovanni. Dai, vai, no, con la tua bolla. Ho il morale sotto i tacchi. Ti vedo, ti sento. Una cosa tremenda. I nostri ascoltatori da te si aspettano sferzate di energia. Santa mia. Vabbè, lasciamo stare, va. Allora. Beh, questi sono i magnifici set, sempre i Clash. Oggi siamo in fase Clash. Bravi. Giovanni, allora, come va il commercio mondiale? Come va? Naturalmente l'Italia va benissimo. La cosiddetta narrazione dice che siamo un paese che va forte, che il debito calerà, che tutto andrà bene e così via. Benissimo. Se invece volete tornare nel mondo reale, quello che conta, quello che poi si impatta veramente sulla vostra vita, andate a vedere i risultati della Møller-Mærsk, che è la più grande compagnia di shipping di container del mondo, che nel 2016 ha perso 1,9 miliardi di dollari. L'anno precedente chiuse con un utile di 925 milioni. Che cosa significa tutto questo? Significa che ogni tanto quelle navi che vedete nel porto piene di container, voi le vedete piccole, ma ce ne sono di gigantesche che non avete neanche idea. Si sta rallentando il loro viaggio. Non ne trasportano di meno. Questo significa che c'è qualcosa che sta succedendo sul commercio mondiale. E infatti le barriere si stavano alzando sulla regolazione del commercio mondiale ben prima che arrivasse Trump. Ci sono degli studi eccellenti su questo, che naturalmente gli anti-Trump non citano perché non li hanno neanche letti, e se li leggessero probabilmente non li capirebbero neanche. Vabbè, canzoniere! Vorrei tornar bimbino, da tutti carezzato, di sera e di mattino, vorrei essere sbucellato. Allora chi mi vedeva di me si innamorava, se non mi stringeva, e viva l'alluminio. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Nel 2006 partecipa e vince la sesta edizione del Grande Fratello Augusto De Megni, un ragazzo di Perugia già noto alle cronache perché protagonista da bambino di uno dei rapimenti di persona più celebri avvenuti in Italia. Il 3 ottobre del 1990 Augusto De Megni ha 10 anni. Sta tornando a casa con il padre, Dino De Megni, un noto uomo d'affari di Perugia. ma ad aspettarli ci sono due banditi armati, legano e imbavagliano il padre, rapiscono il bambino. A inizio così la storia del sequestro di Augusto De Megni. Mi appello ai rapitori tramite i telegiornali e le reti nazionali perché vogliano farsi vivi con me al più presto, assicurando loro che stiamo facendo, io e la mia famiglia stiamo facendo tutto quello che è necessario e possibile perché Augusto possa trascorrere le festività con noi o quantomeno possa tornare quanto prima in seno alla sua famiglia. Sono tre i protagonisti di questa storia, i rapitori da un lato, la potente famiglia del rapito dall'altro e lo Stato, che proprio nei giorni della prigionia approva un decreto per il blocco preventivo dei beni dei parenti dei rapiti. La famiglia, pronta a pagare il riscatto, ha le mani legate. Ma dopo 110 giorni di investigazione, i Knox individuano la fattoria dove è nascosto Augusto. Scatta il blitz, vengono arrestati quattro banditi, tutti sardi, e il bambino è salvo. Bene. Dunque, per Gianni della Storia, dopo il giornale radio, una puntata dedicata al rapimento di Augusto De Megni. Carlo da Roma, per il canzoniere. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, dica. Ettore Petrolini, il Chignola. Ah, perfetto. Bravissimo. Da cui i salamini. Da cui i salamini. Naturalmente. Che posso, cosa... dica. Posso permettermi in chiusura? Magari. Grazie per le vostre voci. Ah, grazie a lei. Grazie e a lei. Il vostro spirito libero. Ah, questo è sicuro. Grazie. Grazie mille. Mario, c'aveva un aggiornamento velocissimo. Solo per dire appunto che la Maersk, cioè la più grande azienda del mondo, lo shipping dei container, quello in di cui parlavi prima, sta facendo meno 6%. Hai dato una notizia a Wall Street. Ok. Cioè, la sapevano bene, questi sono documenti che poi alla fine si sanno sempre come va. Va bene, adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, dicembre 2016. Rischio genetico, stile di vita sano e malattia coronarica. Le malattie, come sappiamo, vengono da molte cause, ma riconduciamole normalmente le cause a due grandi classi, il patrimonio genetico e gli stili di vita. Quindi, da una parte la predisposizione determinata dalla genetica, dall'altra i fattori acquisiti che sono in qualche modo condizionati dallo stile di vita. Allora, la malattia coronarica è stata presa come modello per capire se uno stile di vita sano può influenzare, può modificare, può abbattere il rischio che è contenuto nel nostro patrimonio genetico. E allora sono stati presi tre gruppi di pazienti per andare a studiare oltre 55.000 pazienti con malattia coronarica, dove si è andato a vedere il patrimonio genetico di queste persone, così come lo stile di vita, segnatamente l'abitudine al fumo, l'obesità, l'attività fisica e una dieta sana. L'incidenza di malattia coronarica era del 91% maggiore in chi aveva un alto rischio genetico, cioè un patrimonio genetico condizionante la malattia coronarica, rispetto a quelli che avevano un basso rischio genetico. Ma chi aveva uno stile di vita sano diminuiva in modo significativo il rischio di malattia coronarica, anche se aveva un profilo genetico con rischio elevato. Addirittura gli eventi coronarici venivano dimezzati. Quindi, amici, non ci sono scuse, bisogna campare bene, con attenzione, facendo esercizio fisico e non ingrassando. Questo abbatte un mucchio di problemi. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi apprezza le virtù nascoste di oggetti e feticci. Gianni Meccia, Il Pullover. Il pullover che m'hai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù. Ha il calore che tu davi a me e mi illudo di stare in braccio a te. Il pullover accarezzo sé, verso sera ho nostalgia di te. Ha il profumo che portavi tu, chiudo gli occhi e non ti lascio più.